classic chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped to own a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. She's a neat trick. Well, see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stitch it. Yeah, yeah, don't you know she's a stick? Yeah, yeah. My my my my, I stick a chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On a highway strewn with flowers, till it holds a goodly share of bliss. When the sun gives way to April showers, here's a thought we should never miss. Though April showers may come your way, flowers that bloom in May, and if it's raining, have no regret, because it isn't raining a rain, you know, it's raining violet. And where you see clouds on the hill, we'll see crowds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever April showers come along, though April showers flowers that bloom in May, and if it's raining, have no regret, because it isn't raining a rain, you know, it's raining violet. And where you see clouds on the sea crowds of daffodils, so keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever April showers come Chic, Radio Wombat, il mercoledì 21 febbraio, nuova puntata. E, sì, l'avrete, ma in realtà potrebbe avervi tratto in inganno, perché il primo brano che vi ho fatto ascoltare oggi parlava di shower, ma nel senso di pioggia, April showers. E allora, come già mi è fatto, mi è stato già fatto notare, ma come? Ma la puntata sulla pioggia l'abbiamo già fatta, è stata già, è già scartata, l'abbiamo già messa in un angolo. No, sì, è vero, però quest'oggi non parliamo esattamente di pioggia, ma parliamo di maltempo. Sì, e c'è una differenza comunque, Timpaccio, maltempo, tempo da lupi, tutte queste cosacce qua. Perché in effetti è vero che sì, la pioggia fa parte del maltempo, ma il maltempo comprende anche tornadi, ventaccio pazzesco, la buriana, no, la buriana è un'altra cosa. E, insomma, un gran casino, tant'è che l'ispirazione l'ho presa dai giorni che stiamo vivendo, perché in effetti c'è proprio un tempaccio, il tempo da lupi cosiddetto, e non consiste soltanto di pioggia, fa proprio freddo, è tutto grigio, insomma, brutto tempo. Ecco, ve l'ho detto, direi usato tutti gli aggettivi e tutti i sinonimi che avevo per descrivervi l'argomento di oggi. Quindi, siccome abbiamo una scaletta lunghissimissima, non ci sarà tempo di approfondire pezzo per pezzo e non potremo scendere tanto nei dettagli, ma vi farò ascoltare tantissima musica, perché d'altra parte, quando c'è brutto tempo, cos'altro si deve fare se non chiudersi in casa e ascoltare bellissima musica? Direi, qualcos'altro forse, ma insomma quella è una ottima idea, e quindi vi sprono a fare la stessa cosa, ascoltare Radio Wombat, in particolare adesso Slick Chick, per ripararvi un pochino dal freddo e dal ventaccio che sta spazzando via Firenze e un po' tutta l'Italia, ma non solo l'Italia peraltro. Ma vabbè, Paul Johnson, questo che avete ascoltato con il titolo April Showers, era Paul Johnson, un brano del 1921, come avrete sentito da questo timbro molto vintage, ed è stato scritto da Louis Silvers con un testo di De Silva. Se siete stati nei paesi anglosassoni sapete bene cosa sono le showers, quella pioggia insistente che non è veramente quella tremenda acquazzone, è molto molto molto leggera, però alla fine della fiera sei fradicio. In Irlanda pare ci siano 11 diversi livelli di intensità con cui è classificata la pioggia e decine di nomi con cui identificare la sfumatura precisa con cui ti stai bagnando. È così, oh, e poracci, questo c'hanno, d'altra parte non è che non è un caso che non parlano più di tanto del sole. Quindi, lasciamoci alle spalle April Showers con Paul Johnson, anche perché non è niente affatto aprile e il maltempo in effetti si riferisce più che a una leggera shower, si riferisce proprio a una scroscio che ti infradicia. Come ad esempio quello dei tornadi, il tornado direi che ricorrerà spesso in questa scaletta, e iniziamo con Frank Zappa, G-Spot Tornado, l'album Jazz From Hell del 1986, brano fra l'altro, non avevamo dubbi, uscito con il bollino Parental Advisor, grazie al titolo G-Spot Tornado, che poi in realtà vuol dire il tornado.g. Mica solo questo gli hanno censurato a Frank Zappa, vabbè. We'll be right back. Frank Zappa, G-Spot Tornado, secondo pezzo per questa scaletta, e rimanendo abbastanza in tema, ci soffermiamo adesso su l'uragano, in particolare Hurricane Lily dell'Enfance Rouge. Questo è il pezzo che ci dà un po' la scusa per parlare di, degli uragani. O viceversa, sono gli uragani che ci danno la scusa per ascoltarci l'Enfance Rouge. Comunque l'album è Crisco Valencia. E gli uragani Lily con la Y ce ne sono stati ben tre, tutti nell'Oceano Pacifico dell'Est. Lily invece con la I riguarda i cicloni avvenuti nell'Oceano Atlantico. Però siccome il brano si intitola Hurricane Lily con la Y, andiamo a rimaniamo nel Pacifico. Quindi dicevamo, ce ne sono stati tre di questi cicloni. Uno nel 67 che è arrivato, il cui impatto è arrivato a 121 km orari, uno nel 71 a 140 km orari e uno nel 75 sempre a 140 km orari, che è una roba che non riesco neanche a immaginarmi. Ma Uragano Lily è anche in realtà uno dei tanti nomi dati a Licoris radiata, un fiore della famiglia delle Amarillidacee, o un giglio insomma. E, tra l'altro molto bello se vi andate a guardare le foto. In inglese questa pianta è nota con diversi nomi, tra cui giglio del ragno rosso, giglio magico rosso o fiore dell'equinozio, ma ha anche altri nomi come per l'appunto giglio uragano o giglio della resurrezione, perché questo fiore pare che fiorisca in risposta a delle forti piogge. I bulbi di Licoris radiata sono molto velenosi e vengono usati fondamentalmente in Giappone per tenere lontano parassiti e topi, sono usati come topicidi e antiparassitari. In Giappone il giglio rosso sta a indicare lo shobun, ovvero l'arrivo dell'autunno, e molti buddhisti lo usano per celebrare appunto sempre l'arrivo dell'autunno, ma con una cerimonia che avviene davanti alla tomba di uno dei parenti, insomma dei propri cari. Li piantano sulle tombe perché mostrano in questa maniera un tributo ai morti. Sono diciamo un po' l'equivalente dei nostri crisantemi, fiori associati alla morte, e che non è proprio carino regalare un mazzo a una persona viva, ecco, cioè, è un po' una gaffa, non lo fate perché è brutto. Poiché questi fiori scarlatti di solito fioriscono vicino ai cimiteri, sempre lì si va, e poi oltretutto appunto intorno all'inizio dell'autunno, all'equinozio d'autunno, sono descritti dalle traduzioni cinesi e giapponesi del Sutra del Loto come fiori infestanti che crescono in Diju, ovvero l'inferno, o Hanquan, chissà come lo sto leggendo orribilmente, e questo fiore guiderebbe i morti fino alla loro prossima reincarnazione. Altre leggende legate sempre a questo fiore dicono che quando si vede qualcuno che si potrebbe non rivedere mai più, questi fiori fioriranno lungo il sentiero, e proprio per questo probabilmente i giapponesi usavano questi fiori come noi usiamo i crisantemi nei funerali. Il nome giapponese Igambana, che è il nome popolare che i giapponesi danno ai licoris radiata, significa letteralmente Higan, ovvero l'altra, o insomma la sponda di là del fiume Sanzu. E beh, questo è un po' tutto. Chissà se Hurricane Lily, il nome Hurricane Lily, l'Enfance Rouge l'hanno scelto per riferendosi all'uragano vero e proprio, oppure a questo fiore. Chissà, forse non lo sapremo mai, oppure invece glielo chiederemo, visto che ogni tanto li vediamo e quindi possiamo chiederglielo di persona. Vi faremo sapere, siete interessatissimi, immagino. Beh, io sì, sono incuriosita. Boh, vabbè, che persone aride, se no. We'll be right back. infatti conoscendoli forse lo so perché hanno scelto Hurricane Lily, mi sa che tra le due, tra l'uragano e il fiore dei morti, ma chissà, chissà, invece forse era un mix tra tutte e due le cose. Ma proseguiamo perché davvero, davvero oggi ci sono tantissimi brani da farvi ascoltare e proseguendo velocissimi arriviamo a The Common Arts con So Cold The Night, perché in effetti cioè, il maltempo al di là degli uragani e il ventaccio è sostanzialmente fa freddo. Almeno spesso, a volte in effetti il tempaccio non comporta il freddo, ma spesso sì. Quindi questo è il caso e l'album è Common Arts del 1986. Se non ve li ricordate, i Common Arts erano il gruppo dopo dei Bronski Beat, il gruppo del cantante Jimmy Somerville, che con il suo inconfondibile falsetto spacca tutto. Questo pezzo, secondo me, la voce di Jimmy Somerville fa veramente spavento. Beh, visto che fa freddo, direi qui in regia ci adeguiamo e quindi sentiamoci questa notte fredda. I want Smokey Robinson, Quiet Storm. L'album omonimo è Quiet Storm del 1975, e in quel periodo di funky dove il, per la maggiore andava quel funky macio di Marvin Gaye, Marvin Gaye, Robinson risponde con una soft and warm Quiet Storm, e rimaniamo appunto sulle vocette quasi falsetto, anche se qui forse siamo già un po' sotto, ma insomma sì, e quel funk appunto un po' queer, un po' con questo tono quasi femminile, che però in realtà piaceva un sacco anche alle donne. Questa cosa gli omofobi ottusi proprio non la capiranno mai, poveracci loro. Social Wombat, perché se non me li dimentico, il sito innanzitutto wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net, i due riferimenti più importanti che mi devo ricordare di darvi. E poi un'altra cosa che voglio ricordarvi subito, perché è importante, urgente, e ve la dovete appuntare, è l'appuntamento di sabato 3 marzo e domenica 4 marzo con una 2 giorni intitolata We Want the Airways Back. Beh, una 2 giorni costruita proprio dal Wombat, da Radio Wombat, 2 giorni su radio e frequenze liberate. E si inizia sabato 3 marzo al CSN Next Emerson alle 20 con una cena, poi si prosegue alle 21 con la proiezione di Boconas, la storia di Radio Deseo delle Mujeres Creando de Bolivia. E poi a seguire, imperdibile, live. Sia live che on air, da questi che potete ascoltare proprio su Radio Wombat, il live di CCCCNCNCN con un rafting sonoro nelle correnti elettromagnetiche. Questo è il sottotitolo della performance. Se non sapete chi sono i CCCCNCNCN, beh, andateveli a vedere sul sito del Wombat, potete cliccare comodamente sul link che vi porterà alla pagina di Wikipedia che vi racconterà questa porzione di storia dell'industrial e non solo italiano, torinese, ma italiano tutto. E a seguire Bad Girl con Radiazioni Spaziali e Nautodate, il nostro glorioso DJ con Macchine, Pedali e MP3. E ricordatevi di portarvi una radiolina che prenda anche AM, e se siete ignoranti sappiate che se ci avete scritto sopra MW va bene lo stesso, sempre onde medie si tratta. Portatevela perché non ve ne pentirete. Poi si prosegue la 2 giorni, appunto una 2 giorni, e il giorno dopo, la domenica 4 marzo, tutti alla polveriera Spazio Comune, perché dalle 15 in poi iniziano workshop e dibattiti e racconti. Si inizia con un workshop un po' tecnicoso, con Amate Frequenze, il radioascolto spiegato al chiunque. E poi si prosegue con dibattiti e racconti, le nostre radio, storie di radio pirata e frequenze liberate. Un racconto un po' corale con la partecipazione live di Radio Onda Rossa a Roma, Radio Blackout, Torino, Radio Onda d'Urto, Brescia, Radiogramma, Genova e Radio Morgan, che non esiste più, ma che esisteva, era una radio di movimento a Firenze nei primi anni 80. Insomma, 2 giorni che ci stiamo iniziando a spingere un bel po', perché non capita tutto spesso, direi quasi mai, forse non è mai capitato di avere la possibilità in 2 giorni così densi di ragionare su questo mezzo di comunicazione che è meraviglioso, che è la radio. E quindi, insomma, vi invito a tenervi aggiornati guardando wombat.noblogs.org per il programma completo e poi soprattutto tenervi liberi all'agenda per esserci assolutamente. Basta, poi dopo vi dirò anche altri appuntamenti della Wombat Agenda, ma ora non possiamo più togliere tempo alla scaletta che, come vi dicevo, è lunga, e andiamo su un pezzone veramente da 90 che è Wild is the Wind. Wild is the Wind è un brano composto da Dimitri Tionkin e Ned Washington e inciso originariamente da Johnny Mathis per la colonna sonora del film Selvaggio è il vento. In italiano almeno era stato tradotto così, del 1957. Ce ne sono state tante interpretazioni, ma quella piuttosto celebre, che poi è quella che ho scelto, è l'interpretazione ad opera di David Bowie, che inserì questa versione nell'album Station to Station del 75. Bowie era un grande ammiratore di Nina Simone, come non dargli torto, e della sua versione di Wild is the Wind, che Nina Simone aveva inciso nel 1966. Bowie incontra la Simone a Los Angeles nel 75 e pare che dopo averla incontrata si decise a registrare la sua versione per l'album che stava appena uscendo, appunto Station to Station. Magari sono io che ce la butto lì, ma c'è un'ansia e una smania nell'interpretazione di Bowie da mozzare veramente il fiato. satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild is the wind. Sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life. Your life itself, like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. Oh, will life. Ora io lo rimetterei da capo, ma non posso. E, ora, passando dal sacro al profano, direi arriviamo alle Ronettes. Toccava. Le Ronettes, Walking in the Rain, che non avevo messo nella puntata della pioggia, quindi vi tocca adesso. Walking in the Rain del 1964, E in questo brano c'è lo zampino di Phil Spector, ma a parte questa banalità, nel 65 il pezzo ha ricevuto un Grammy per gli effetti speciali. E d'altra parte era il 65 e far sentire un temporale dentro un brano musicale evidentemente non era così ovvio. C'è pure Cher, tra l'altro, dentro nelle retrovie come corista. Quindi Walking in the Rain, The Ronettes. Quando c'è maltempo, ovviamente non c'è sole, di qui la presenza di Hen Sunshine in questa scaletta. Bill Withers, 1971, scritto da lui e anche ovviamente interpretato, estratto come singolo, il primo singolo dal suo primo album Just As I Am. Bill Withers aveva passato 9 anni in marina, poi torna, si mette a lavorare in una fabbrica di componenti di bagni per Boeing 747, cioè i bagni degli aerei, e scrive poi questo brano. L'ispirazione gli venne dopo aver visto il film del 1962, I giorni del vino e delle rose, che io non so se avete visto, ma è un film tristissimo, che parla di una coppia dalla vita vuota e desolata che inizia a darsi all'alcol e ci finisce con tutte le zampe. Inizialmente il cantante aveva, cioè il cantante, insomma, Bill Withers aveva, pare, praticamente, non so se ve la ricordate questo pezzo ora, quando poi parte ve lo ricorderete tutti, però c'è un pezzo in cui lui ripete I know tipo un miliardo di volte, 26 in particolare, I know, I know, I know, I know, 27 volte, e 26 anzi, e dice che inizialmente lui ci ha buttato lì questi I know, però poi voleva scriverci sopra un'altra parte, ma altri suoi amici musicisti gli dissero: no, ma aspetta, ma lascialo così com'è, che piglia bene, è strano, è buffo, lascialo proprio così. E beh, e secondo me la voce sua, questa fra l'altro è un live di quegli anni e è perfetta per descrivere proprio le giornate senza sole, ecco. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. C'era sta fastidiosa ronza, perdonatemi. Ma faceva parte del pezzo. Allora, arriviamo a. Beh, torniamo in qualche maniera alle tempeste, perché qui se no si andava troppo sul sottile. Riders on the Storm, toccava, toccava. Sì, Riders on the Storm, dei Doors, LA Woman del 1971. Ma non vi preoccupate, non vi farò ascoltare la versione originale dei Doors. Cavaliere nella tempesta, la canzone. Pare che nacque un giorno in sala di registrazione quando Jim Morrison si mise a improvvisare cantando il testo di questa vecchia canzone che si chiamava Ghost Riders in the Sky e poi lui la cambiò in Riders on the Storm. Fu l'ultimo brano registrato dai Doors, chiaramente dai Doors con Jim Morrison, insomma quelli di tutto punto, e peraltro anche l'ultima canzone registrata proprio da Jim Morrison, cioè perlomeno l'ultima registrata ad essere pubblicata. Il singolo uscì nel 1971. Poco prima della morte di Jim Morrison, e entrò in classifica esattamente il 3 luglio del 1971, che poi è il giorno in cui morì. Nel testo compare questa sinistra figura dell'autostoppista assassino che già era presente in alcune poesie di Jim Morrison ed era anche il protagonista del suo film, il suo progetto cinematografico HVY. Film amatoriale che aveva scritto, diretto e interpretato. Ma questo personaggio dell'autostoppista killer era ispirato alla figura di Billy Cook, un serial killer che nel 1950 uccise circa 12 persone, tra cui un'intera famiglia, facendosi dare passaggi in giro per gli Stati Uniti prima di essere catturato e ucciso, condannato a morte nel 1952. Capito perché bisogna stare attenti a fastidiare i passaggi, così dicono le persone giudiziose. Quindi Riders on the Storm, però non ve la beccate nella versione dei Doors, che non mi sembrava il caso, bensì nella interessante e ebbriosa versione degli String Quartet nel loro tributo ai Doors. Thank you. Stormy Weather, come dicevano insistentemente i Pixies. L'album era Bossa Nova del 1990, ne parlano tutti male di sto album, ma a me in realtà questo pezzo alla fine piace, ve lo devo dire. Proseguendo nella nostra scaletta, non manca più tantissimo, arriviamo a T-Bone Walker con Stormy Monday. Siamo ormai sul tempestoso. L'album è My Feeling for the Blues del 1969. Lo chiamano lunedì tempestoso, ma il giovedì è brutto lo stesso. Questo sostanzialmente è il succo della faccenda. Call it Stormy Monday, but Thursday is just as bad. Conosciuto anche come Stormy Monday o Call it Stormy Monday. E tutti questi titoli poi alla fine sono questo brano blues scritto da T-Bone Walker e registrato per la prima volta nel 1947 con la compagnia, accompagnato dal trombettista Teddy Buckner. Il brano è il classico blues in 12 misure, proprio preciso, e un po' per questo, un po' per il pezzo in sé che è bellissimo, è uno dei blues più famosi della storia. E poi in realtà è passato un po' con tutti questi titoli che aveva, poi in realtà tutti lo chiamano Stormy Monday per gli amici, insomma, ed è divenuto, non mi riesce a parlare, negli anni una vera e propria pietra miliare, ecco, ed è tra i vari che l'hanno rifatto ci sono gli Allman Brothers, ma Etta James, B.B. King. B.B. King tra l'altro disse che fu proprio questo blues a spingerlo a imparare a suonare la chitarra, insomma, quindi direi che gliene dobbiamo parecchie a T-Bone Walker. E il suo stile, lo stile di T-Bone Walker ne ha fatto, diciamo, uno dei pionieri della chitarra elettrica moderna, e tra l'altro oltre al modo in cui componeva era assolutamente destabilizzante per l'epoca il modo in cui suonava la chitarra, e ad esempio dal vivo la teneva sul collo dietro la schiena durante gli assoli. Era una cosa che al tempo, appunto, nei primi anni 50 non era assolutamente, cioè non aveva mai fatto nessuno, o comunque era assolutamente raro, e anticipò in questa maniera, influenzò i cosiddetti acrobati della chitarra che poi sarebbero venuti dopo. Quindi a questo punto non resta che ascoltarcelo, Stormy Monday, T-Bone Walker. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Thank you. heart's in misery. Crazy about my baby. Yeah, send her back to me. E vado a leggervi gli appuntamenti della prossima settimana pervenuti alla Wombat Agenda, anche se vi ricordo potete trovarli tutti comodamente enunciati in podcast alla rassegna stampa degli eventi che è curata da Fuoco alle Polveri e che va in onda in diretta subito dopo Fuoco alle Polveri tutti i lunedì, ma poi la potete trovare e riascoltare comodamente in podcast dal sito di Radio Wombat se ve la siete persa, ma io vi ricordo lo stesso quelli che sono gli appuntamenti a questo punto da giovedì in poi. Iniziamo subito con giovedì 22 febbraio, Critical Mass di febbraio alle ore 18:30 in Santissima Annunziata. Poi venerdì 23 alle ore 19 presso la libreria Majakowski del Centro Popolare Autogestito Firenze Sud di via Villa Magna 27A, la curatrice del libro Alessandra Maicozzi presenterà Il lungo cammino della Palestina 1917-2017 e introduce l'associazione, scusate, di amicizia italo-palestinese. E a seguire la serata con Soul Rocker Sound System featuring La Svolta Sound System. E vi ricordo, La Svolta Sound System ha tra le sue fila, tra l'altro, un noto DJ del Radio Wombat di Soul Time. Ve lo dico, sì. Venerdì 23 febbraio ancora al Next Emerson, questa volta Exchange Fridays dalle 21, Open Cyphers, ovvero si balla il breakdance nel cerchio, e Vinyl Session Funk Soul Disco Rap, la mensile serata Open Cypher. Sempre venerdì 23, festa di carnevale al plesso didattico di Viale Morgagni dalle 22 in poi, e il programma è DJ set, poi un live dei Fiati Sprecati dalle 23 in poi, e poi al mezzanotte in poi, mezzanotte e mezzo in poi, DJ set Electrocumbia. Studenti di sinistra, collettivo di ingegneria Filo da Tortore, collettivo Codice Rosso, collettivo Laboratorio 15, collettivo Rosso Malpolo, scusate, Arche Costruendo, collettivo Nostos, collettivo di Scienze, sono gli organizzatori della serata. Sabato 24 dalle 9 alle 23 all'occupazione di Via del Leone, di mano in mano, mercato dell'usato, del baratto e del riuso, organizzato da Di Mano in Mano e l'occupazione di Via del Leone. A seguire A Tiger in Africa, funk afro electronic sound con vinili black, e ci sarà appunto A Tiger in Africa, DJ radiofonico e fondatore del progetto Introspettiva. La selezione spazierà dal funk, soul, beat e afro fino ad arrivare all'elettronica. Dalle 19, sempre in Via del Leone, sarà servito un aperitivo con vari cibi, e dal pomeriggio in poi ovviamente birra, vino, eccetera, eccetera, eccetera. Le raccomandazioni che ci scrivono sono no digos, non nazi. Sempre sabato 24 febbraio dalle 22 al Next Emerson Sound System Carnival Reggae and Drum and Bass Benefit Night con Romola Sound System e Inner City Jungle in collaborazione con la rete dei collettivi fiorentini Project Family RF L'Altra Repubblica. Il ricavato sarà devoluto per le spese legali dei ragazzi e le ragazze della rete dei collettivi. E ci sarà il Big Sound autocostruito da 16 kW della Romola Sound e luci e video mapping in tutto il centro sociale. I generi spazieranno dal reggae al dub a cura della Romola Sound System e Jungle Drum and Bass Neurofunk a cura di Inner City Jungle Crew. poi finiamo con domenica 25 dalle 10 alle 18 presso Villa Montalvo a Campi Bisenzio, incontro regionale dei comitati in lotta sul ciclo dei rifiuti, organizzato dalle mamme non inceneritore e dall'Assemblea per la Piana contro le nocività. L'appello per un incontro regionale delle realtà e dei comitati locali in lotta sul ciclo dei rifiuti. Iniziano fondamentalmente questo appello, inizia così: abbiamo pensato di incontrarci con tutti i comitati toscani che si occupano di tematiche legate ai rifiuti e all'ambiente, quindi inceneritori di discarica eccetera, per trovare dei punti in comune su cui elaborare delle strategie collettive e dare forza alle specificità di ogni realtà. Dalle 10 alle 18 appunto, vi ricordo, a Villa Montalvo a Campi Bisenzio, con pranzo tutti insieme. Bene, questi sono super velocemente gli appuntamenti della settimana, almeno la settimana che inizia da Slick Chick in poi, e adesso non c'è più tempo per dire altro, soltanto per farvi ascoltare The Spinners dall'album Two Time Around del 1970 con Bad Bad Bad Weather Till You Come Home. Ora passiamo alla brezza, perché la brezza in fondo sembra una cosa tanto così, cioè un venticello, però insomma un po' alla fine dà fastidio, spesso perlomeno. E The Breeze and I è una, in realtà una canzone popolare, che originariamente era uno strumentale chiamato Andalusia, scritto dal compositore cubano Ernesto Lecuona, e che era una parte della sua suite Andalusia, si chiamava così anche la suite, e l'aveva scritta nel 1928. Poi in seguito Emilio De Torre aggiunse il testo in spagnolo, e invece nel 40 Hall Stillman aggiunse il testo in inglese. Questa che vi andiamo a far ascoltare invece è la fichissima interpretazione di Caterina Valente. La la la la la. Penso un'estensione di circa 727 ottave, Caterina Valente, vabbè. Velocissimi perché ci mancano due pezzi e sì, due pezzi, il primo che vi faccio ascoltare è dei Tornados, Riding the Wind, il pezzo del 1962. Ma The Tornados non sono da confondere con i Tornados, scritto Tornados, ovvero gli americani padri del surf, che forse qualcuno di voi si ricorderà. Invece i Tornados si formano nel 61, beh sì, più o meno erano contemporanei effettivamente. I membri originari erano Alan Caddy e George Bellamy alle chitarre e Roger Laverne all'organo, Hans Bart al basso e Clem Cattini alla batteria. Il loro brano Telstar fu il primo singolo di un gruppo britannico a raggiungere la prima posizione nelle classifiche negli Stati Uniti e vendette 5 milioni di copie in tutto il mondo, un successone che tra l'altro poteva evidentemente arricchire loro e anche il produttore, soprattutto il produttore Joe Mack, ma ci fu una causa per violazione di diritto d'autore in Francia che mantenne tutti i diritti bloccati per 6 anni e nel frattempo il gruppo si sciolse. Che meraviglia il diritto d'autore e il copyright e chi ci crede. Thank you. Beh, vivremo senza i tornados, che si deve fare? Basta, siamo giunti alla fine di questa trasmissione e all'ultima espressione del maltempo che prendiamo in esame stasera, ovvero la nebbia. E lo facciamo attraverso un grandissimo classico, ovvero Misty, che è uno standard della musica jazz scritto nel 1954 dal pianista Harold Gardner, che vanta interpretazione e variazione di ogni sorta, veramente da chiunque, ma noi ci ascoltiamo probabilmente una delle più famose e una delle più belle, che è quella di Ella Fitzgerald. E con questo ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima settimana, mercoledì prossimo, sempre su Slick Chick e sempre ovviamente sul Wombat, su Radio Wombat. Mi raccomando, tenetevi aggiornati perché avete visto, ci sono molte novità, in particolare la 2 giorni che ci stiamo spingendo del 3 e 4 marzo, ma comunque sia nel frattempo potete rimanere in compagnia dei nostri innumerevoli programmi. Ciao ciao a tutti. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. Don't you know? Can't you see that I'm hopelessly lost? That's why I'm following you. On my own, when I wander through this wonderland alone, never knowing my Misty.